Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Diamo inizio alla settimana numero 25 di Eclettica. È Giulio Caperdoni a farlo con il vostro aiuto. Come con il vostro aiuto si tirerà giù la saracinesca il 31 di maggio di questa radio alle ore 18. E quindi le settimane di quest'ultima stagione sono 30. Giulio, Giulio at RadioRockFM.com, questo è l'indirizzo e anche il motivo dell'indecisione, perché è un indirizzo valido ancora per qualche settimana, ma da qualche giorno è disponibile quello che dovete iniziare a imparare, mio come anche di tutte le altre voci di Rock FM, Giulio at rockfamily.it, e per gli altri è analogo nome at rockfamily.it, come il sito www.rockfamily.it. questo sarà il futuro di tutti noi, per ora ancora relativamente povero, ma poco a poco crescerà in termini di contenuti e in termini di qualità. Ma come vi dicevo, andiamo ad iniziare. Scena. Un ragazzo in una camera buia su di un letto, camera stretta, posta alle pareti, cuffie alle orecchie di quelle grandi, giradischi poggiato a terra, il pavimento coperto di vinili, che sembrano mattonelle, che sembrano vinili, gli occhi aperti verso il soffitto. Suono, un silenzio sfacciato da notte fonda, da lontano due ubriachi cantano in accento scozzese di brughiere ed alcol, attraversando la strada principale. Odore, di vecchie cose ritrovate in un'arca. Mi vedrei così se dovessi essere il personaggio di uno di quei telefilm anni 70. Un po' sfigato, un po' malinconico, un po' perdente, un po' saggio. Il bello dei punti di vista è che con sufficiente fantasia si può affermare qualunque cosa che risulti almeno parzialmente condivisibile. Einstein, lo ringrazio spesso, l'ho anche appeso al muro. Una delle sue solite facce alla Doc in Ritorno al Futuro, quella con la lingua di fuori. Quando tutto va a rotoli e fuori piove e io non ho altro che queste pareti d'inverno, 365 giorni l'anno, guardo il poster di quel vecchio pazzo e penso che mi suggerisca quanto tutto sia relativamente giusto o relativamente sbagliato, quanto io sia relativamente uno sfigato. Questo era l'incipit di Dove sei, Charlie? Una storia di poesia e rock and roll di Holly Orange. Welcome to nowhere, where all days are okay. Tuesday, Friday, and Saturday. Thank you. recently that a Roman toga party was held, from which we have received 24 reports of individual acts of perversion so profound and disgusting that decorum prohibits listing them here. These are the charges as recorded this day, 15 November 1962. Non dimenticatevi del podcasting, che potrà rimanere a futura memoria di questa stagione di Eclettica, come anche delle precedenti nel caso abbiate avuto l'occasione di recuperare anche quelle. Giulio Caperdoni con voi per un'ora, fra le 19 e le 20, quest'ora aperta dall'artista romano che ha deciso di utilizzare uno pseudonimo che si avvicina molto al nome di un noto attore, The Niro, ha aperto Eclettica con Liar. E poi siamo andati a riprendere una vecchia canzone, Nobody Does It Better, rifatta da Ivana XL, pezzo che era già passato in questa versione qualche mese fa all'interno di Eclettica, e quest'oggi ho deciso di rimetterlo, semplicemente perché sono andato a riguardarmi le vecchie playlist e ho trovato il passaggio di questo brano e mi sono detto, come ogni tanto capita, perché no? Perché non rimetterlo? Ed ora una band che già ci siamo ascoltati con un pezzo la settimana scorsa e che nel frattempo è uscita con il 7 pollici che anticipa l'album che uscirà per Sub Pop il 6 di maggio. Mi fa piacere vedere come Sub Pop mi ha piacevolmente stupito, come Sub Pop sia riuscita a rivitalizzarsi dopo il periodo di bassa seguito al periodo di alta del grunge. Loro si chiamano No Age e questa è Eraser. Thank you. quanto la mia vita stia relativamente andando a farsi fottere. Il gioco della relatività è l'unica preghiera semplice capace di salvarmi in ogni situazione. Salvarmi relativamente, intendo. Affissi alle pareti accanto, a coprire sparse macchie di umidità nel parato verde oliva, c'è Jack Kerouac, che sembra gridare qualcosa all'obiettivo del fotografo, ridendo, o semplicemente esasperato dagli scatti, lungo una strada di San Francisco. Accanto a Jack, il volto di Warhol, in acrilico. Accanto a Warhol, la Venere di Milo. Quando la guardo, penso a quanto sia bastarda, l'emblema della bellezza che non ama, che non dà nulla in cambio. Puoi solo contemplarla e volerla, sapendo che lei non ti farà sentire speciale, che non sarà mai tua. Quelle braccia fantasma che non potranno mai sfiorarti, stringerti. La Venere di Milo non ha le braccia per evitare ogni eccezione, penso. La bellezza è crudele da morire. Lasciala stare, dice Andy, è una puttanella frigida di marmo. Questo era ancora l'incipit di Dove sei, Charlie? Una storia di poesia e rock and roll di Holly Orange. She was just 17. Look. Excuse me, sir, is this the Delta House? Sure. Come on in. On My Time da parte dei The Muslims. È stato citato il nome di Jonathan Richman da più di un commentatore riferito a loro. Prima ancora Jaguar Love con Bets Over the Pacific Ocean ed ora uno di quei pezzi da bollino. Bollino, non so di che colore, il bollino di Eclettica, quello di qualità. Loro vengono da Leeds, che vi ricordo essere anche la città degli I Like Trains, infatti l'epica direi che è la stessa. Si chiamano Forward Russia con il punto esclamativo in fondo, ma rovesciato anche all'inizio. Sono usciti il 14 di aprile con un nuovo disco dal titolo Life Processes e le loro chitarre stanno per arrivare a tenervi compagnia fino alla fine della prima parte di Eclettica di quest'oggi. Chitarre del brano intitolato Spanish Triangles. Time to